Sembra che la preghiera sia uno dei settori più privati e inviolabili della vita di ciascuno di noi. Infatti, in un certo senso è così. Uno prega quando vuole e come vuole, e nessuno ha il diritto di chiedere che cosa dica e perché preghi così. La preghiera è un rapporto talmente intimo tra la creatura e il creatore che un altro essere vivente estraneo non può intromettersi. Però, una verità non ne esclude un'altra. Infatti, se c'è, è un argomento sul quale Gesù ha parlato e giudicato anche severamente, è stato proprio quello della preghiera. Uno di questi insegnamenti lo troviamo nel Vangelo di Matteo, in occasione dell'insegnamento della preghiera modello, il Padre nostro. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli. Matteo 6.58. Dunque, in questo insegnamento Gesù ha dettato come e dove pregare, suggerendo cosa dire. Perciò, se i seguaci di Gesù a volte esaminano le preghiere altrui, non è per una illecita intromissione o curiosità, ma per poter comprendere gli eventi. Quando l'apostolo Giovanni scrisse di non credere ad ogni spirito, ma di provare gli spiriti per comprendere se vengono da Dio, 1 Giovanni 4.1, autorizzava ogni cristiano a indagare la veridicità spirituale altrui, non volendolo sprovveduto ma attento verso i seduttori della fede. In definitiva, ogni settore della vita religiosa, compresa la preghiera, deve essere sottoposto ad un serio esame, perché se ci è il giusto e il vero, esiste anche il falso e l'ingiusto. Se ci sono persone che parlano da parte di Dio, ce ne sono anche altre che parlano da parte del diavolo. Così, se ci sono preghiere accettate da Dio, ce ne sono pure altre da Lui odiate, le quali saranno opportunamente evitate da qualsiasi persona timorosa di Dio. Tra le preghiere sottoposte al giudizio negativo di Dio, Chen è una che ha la parvenza di essere dettata dallo Spirito Santo. Anzi, non è tanto una preghiera, anche se fa parte di quella categoria. Si tratta più che altro di una richiesta di preghiera indirizzata ad altri. Per chiarezza propongo il contenuto di una email arrivatami, dove è ben evidenziato a cosa mi riferisco, e in merito alla quale, ovviamente per una questione di riservatezza, ho cambiato nome e località. Cari fratelli, vi scrivo per una richiesta urgente della nostra sorella Anna di Torino. Una sua cara amica che è molto vicina al Signore, anche se credo che non abbia ancora dato la sua vita a Lui, ha chiesto SPO Nuovo Testamento, Name Nuovo Testamento e preghiere alla Chiesa di Cristo per un fatto improvviso e scioccante che è accaduto a suo fratello. Infatti questa persona è tuttora ricoverata in rianimazione per una sospetta, meno polmonite, che gli ha collassato i polmoni e che i medici non si spiegano. Preghiamo perché prima di tutto che lui possa conoscere il Signore se vorrà guarirlo e soprattutto che tutto vada a sua gloria. Grazie. Un abbraccio forte. I fatti sono questi. Una sorella in fede ha una cara amica, il fratello della quale versa in gravi condizioni. E questa amica, conoscendo la fede della nostra sorella in Cristo, le domanda di chiedere alla Chiesa di pregare per suo fratello, perché Dio, se è nella sua volontà, possa guarirlo. Meno è che qualsiasi cosa accada, possa tornare alla gloria di Dio. Da notare che l'amica di questa sorella in fede conosce il messaggio del Vangelo e non è per nulla contraria. Anzi, come dice l'email, è molto vicina al Signore. Chissà perché, ma noi credenti, quando una persona, come dice la Scrittura, è illuminata dallo Spirito di Dio, quando gusta il dono celeste ed è stata fatta partecipe dell'opera dello Spirito Santo, Quando ha gustato la buona parola di Dio e ha realizzato già ora il mondo futuro, Ebrei 6.4.6, abbiamo una certa simpatia e fiducia nella sua conversione. Mentre, in realtà, quella persona si trova sotto il più grande pericolo che possa incontrare, crocifiggere di nuovo per conto proprio il Figlio di Dio e essere E questa drammatica situazione, che dovrebbe suscitare nel credente il bisogno di scrivere delle richieste di intercessione via email, perché questa persona non commetta il peccato imperdonabile né in questo mondo e neppure nel mondo futuro, anziché inoltrare una richiesta di preghiera ricevuta, simile a questa sopraesposta. E, forse mancanza di sensibilità o di carità, questa mia conclusione. Che sia mancanza di carità non credo, perché ho speso e spenderò ancora tutta la mia vita perché le anime si ravvedano per ottenere la vita eterna, e neppure che si tratti di mancanza di sensibilità, perché ogni volta che leggo di queste email, e ne ricevo tante, la mia mente, meno per associazione di idee, meno pensa a due episodi simili a quello della sorella in fede e che mi rendono perplesso in merito alle richieste di preghiera di molte persone attratte dal Vangelo. Il primo episodio è descritto nel libro dell'Esodo e riguarda Mosè, quando chiede al Faraone il permesso di uscire dall'Egitto per fare dei sacrifici all'Eterno Dio. E, noto a tutti, che il Faraone non volesse concedere questo permesso a Mosè, e altrettanto lo è che l'Eterno Dio mandò dei giudizi perché il Faraone fosse indotto ad ubbidire. Davanti al flagello delle rane il Faraone disse a Mosè: «Pregate l'Eterno che allontani le rane da me e dal mio popolo». Mentre davanti al flagello delle mosche, il faraone disse espressamente: «Vi lascerò andare, non andate troppo lontano». PREG Antico Testamento e per me. Esodo 8.8.28. Dunque, il faraone si trovava in una situazione molto dolorosa, come l'amica della nostra sorella in fede. Così, prima chiede di essere liberato dalle afflizioni e in seguito chiede preghiere per se stesso. Una richiesta dettata dalla fede, una richiesta proveniente da un certo ravvedimento, una richiesta che dovrebbe commuovere un credente? Nulla di tutto questo. L'obiettivo del faraone era uno solo: stare bene. A lui non importava niente né di Mosè, né di Dio, né del popolo di Israele. A lui interessava il proprio benessere fisico, per il quale l'uomo è disposto a tutto. Come disse il diavolo a Dio nel libro di Giobbe: l'uomo è disposto a dare tutto ciò che possiede per la sua vita. Giobbe 2.4. E questa. La ragione per cui molte persone venute in contatto con il Vangelo, vedendo anche i miracoli o gli interventi particolari che Dio compie a favore dei credenti, chiedono preghiere per loro stessi. Se Dio interviene a favore di coloro che hanno fede in Lui, perché non dovrebbe farlo anche verso di loro? Non è forse un Dio di amore? Ma la risposta di Gesù a coloro che lo cercavano è più che valida dopo 2000 anni. In verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Giovanni 6.26. Ecco la vera ragione per cui la maggioranza delle persone ricerca Dio: per essere saziati. Saziati. Fisicamente, saziati moralmente e spiritualmente. L'altro episodio nel quale una persona chiede preghiera a proprio favore lo troviamo al tempo degli Apostoli, quando Pietro imponeva le mani ai credenti della Samaria perché ricevessero lo Spirito Santo. Tra i credenti battezzati, Atti 8.12, c'era un certo Simone che prima della conversione esercitava le arti magiche, Atti 8.9, e Simone, vedendo che per l'imposizione delle mani degli apostoli veniva dato lo Spirito Santo, offrì loro del denaro, dicendo: «Date anche a me questo potere, affinché colui sul quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo». Ma Pietro gli disse: «Vada il tuo denaro in perdizione con te, perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio». Ravvediti dunque da questa tua malvagità e prega Dio che, se è possibile, ti sia perdonato il pensiero del tuo cuore, poiché io ti vedo essere nel fiele di amarezza e nei legami di iniquità. E Simone rispondendo disse: «Pregate voi il Signore per me, affinché nulla di ciò che avete detto mi accada». Atti 8.1-8.24. Dunque anche questo Simone chiede preghiere per sé, perché doveva ravvedersi da una specifica malvagità della quale era schiavo. Anche questa è una cosa buona da incoraggiare. Se una persona fosse anche un credente e ha un cammino sbagliato, è giusto che chieda ai fratelli di pregare Dio per lui, perché Dio lo aiuti ad abbandonare un tale percorso? Dipende dal movente della richiesta. Se uno chiede che siano rivolte preghiere a Dio per lui, ma non è disposto a voler lasciare ciò che è sbagliato, a nulla servono le preghiere. Se si chiedono le preghiere per poter fare meno fatica ad abbandonare ciò che è sbagliato per voler soffrire di meno, diventa un obiettivo diabolico. È vero che il credente è un sacerdote, nel senso che è chiamato ad intercedere per gli altri, ma è pure vero che con il nuovo patto ogni credente viene istruito direttamente da Dio, ha una relazione specifica, intima e personale con Cristo, perciò chiedere agli altri ciò che lui può fare è un fuggire alle responsabilità. Anche Gesù si trovò in grandi difficoltà nell'orto del Getsemani, al punto che temeva di morire, e come ogni essere umano sentiva il bisogno di un sostegno morale, perciò chiese ai discepoli di rimanere vicino a lui e di pregare con lui, ma non di pregare per lui. Matteo 26.38 è anche vero che almeno per tre volte gli apostoli chiedono nelle lettere di pregare per loro. 1 Timoteo 5.25, 2 Timoteo 3.1, Ebrei 13.18 e Giacomo ordina di pregare gli uni per gli altri, ma ogni volta si esamineranno le situazioni. Soprattutto, quando a chiederlo, saranno degli increduli. Aprile 2011. Ellero.